vita, costeggiando le rive del Don, sulle bianche pianure della Russia, dove insieme ballavamo il casasciò. Occhi, occhi castani, che scordare mai più non potrò. Sento ancora le sue mani che battevano al suono del casasciò. Ricordo si perde nel tempo, ma qualcosa è rimasto di lui. Vive ancora in fondo ai miei occhi, e scordarlo io non potrò mai.